e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ma soprattutto alla mia donna di denari che è tornata. Ecco, vedi, non resistevi più, eh? No, dobbiamo fare il cambio di testimone, mi pareva corretto rientrare proprio in questo rush finale, no? Poi oggi è l'ultima giornata di contrattazione di borsa, non me la potevo certo perdere. Assolutamente, e poi anche un modo di farti gli auguri per il nuovo esatto, anno. Esatto, possiamo farli in modo originale. Mi porti da qualche parte speciale? Senti un po'. Dai, dove siamo? A occhio a Venezia. Perfetto, a occhio così. Bella scelta, però grazie. Romantica. Tra l'altro ti devo dire che se si tratta di una vacanza last minute, proprio tra pochissimo nella rassegna stampa di denari ho qualche raccomandazione da girarti, quindi presta la dovuta attenzione. Allora sì, allora noi partiamo, ti tento. Sì. Ti tento, è vero, con tentazione. È da molto che non vado a Venezia, l'ultima volta ci sono stata un bel po' fa e sono stata un paio d'ore via. Allora, invece, tempo di vedere l'acqua alta però, eh? Vedi? Proprio la giornata giusta è stata, sì. Allora, se avete visto l'acqua alta, se avete ancora delle foto, mandatecele via WhatsApp. Intanto io ti tento con tentazioni. Cos'è? È questo veglione organizzato proprio per domani sera nella storica torre Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia. Che meraviglia. Un party, sì. Adesso è brutto dirlo perché ti vorrei invitare, da 1500 euro a testa. Faccio un bilancio dei miei investimenti di quest'anno, vediamo se ci esce fuori qualche spicciolo. Perché a firmare il menù e la serata è Carlo Cracco, insomma sono un bel 3.000 euro a coppia, eh? Ma guarda, ti devo dire che dato il capodanno, data la visibilità dello chef, alla fine forse non costa neanche tanto, non lo so, dici. Non mi guardare. Vabbè, io direi che potresti venire a casa mia, che ti faccio un menù non da Cracco ma no, sono sicura che tu sei in grado di sorprendermi ad un costo molto inferiore, ma io li spenderei anche per venire da te, perché insomma so che mi tratti come una regina. È vero. Allora intanto 1500 euro per mangiare alla Venezia da Cracco, però ormai tanto i posti saranno sicuramente andati perché volano nonostante la crisi. Invece io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, mi travesto un po' da donna di denaro per chiedere che budget avete per il cenone e che cosa pensate di preparare. E tu? Allora io sono stata invitata a cena da un'amica che mi porta prima a vedere anche un musical. Fantastico, allora noi partiamo. Partiamo con le notizie finanziarie perché abbiamo l'ultima seduta di borsa per quello che riguarda Milano, meno 0,25% sul FTSE MIB, meno 0,20% Parigi, Francoforte meno 0,12%, Londra meno 0,26%. C'è stata l'ultima seduta di quest'anno una chiusura positiva per le piazze asiatiche, però complessivamente l'anno si chiude con un saldo in rosso per i principali appunto listini di quell'area. La borsa di Shanghai ha registrato, ed è stata l'unica, un guadagno dello 0,24%, le altre piazze invece appunto asiatiche hanno chiuso in negativo. La piazza di Shenzhen, per esempio, la seconda borsa della Cina continentale, oggi ha chiuso con un più 0,15%, ma ha una perdita di quasi il 15% rispetto ad un anno fa, quindi una situazione mista. Vedremo stasera le contrattazioni a Wall Street appunto come si concluderanno e vedremo anche Milano questa sera alle 17:30 nel suo saldo finale. I temi di oggi di Milano: Salvatore Ferragamo miglior titolo, più 1,89%, Saipem più 0,8% con un rialzo del prezzo del petrolio, il Brent a Londra è a $57 al barile, Benelux Ottica più 0,7%, Fiat più 0,5%, abbiamo ancora chiuse le negoziazioni appunto per Monte dei Paschi. Peraltro nel nostro approfondimento di denari stamattina parleremo di banche, ma soprattutto faremo un bilancio di fine anno della tenuta del nostro conto corrente. Il 2017 sarà l'anno del cambiamento, come faremo a cercare la proposta commerciale migliore per noi. I peggiori titoli di Milano: abbiamo Buzzi Unicem che perde 1,5%, CNH Industrial meno 1,20%, meno 0,7% per Recordati. Oggi non abbiamo dati macroeconomici particolarmente rilevanti per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti da segnalare che il Dow Jones non riesce ad agguantare questi 20.000 punti che sarebbero il record storico appunto per il Dow Jones, e il mercato guarda al raggiungimento di questa soglia da tempo proprio come un traguardo finanziario che sancirebbe veramente un anno molto interessante per la della borsa americana, ma non sappiamo appunto se ci riuscirà. Anche la variazione percentuale di ieri è stata praticamente poco mossa. Da segnalare anche per un movimento dovuto ad un algoritmo questa mattina sui mercati asiatici, che l'euro ha agganciato 1,05,60 sul dollaro, quindi movimento in forte rialzo anche per la moneta unica europea. Allora, andiamo a qualche altra notiziola della nostra rassegna stampa. Molti italiani avranno, per loro fortuna, come dicevo prima con Nicoletta, organizzato delle partenze last minute, no? Mm. Allora, alcune associazioni dei consumatori raccomandano prudenza sulle partenze dell'ultimo minuto, perché intanto siamo davvero sicuri che siano così scontate? Una delle novità del settore turistico è il last second, ancor più del last minute, l'invenduto di voli, alberghi e vacanze, offerto a prezzi scontati, a condizione però di partire entro 24-48 ore, quindi tu scegli oggi, entro Capodanno devi andare. Giusto il tempo di fare la valigina. Allora, questa lista di raccomandazioni l'ha stilata l'Unione Nazionale Consumatori, che suggerisce di controllare il costo iniziale della vacanza, che dovrebbe essere in media del 30% superiore a quello scontato. Scegliete naturalmente un last minute con la dovuta attenzione. Non significa optare per una vacanza di serie B, perché i diritti di chi viaggia rimangono i medesimi delle vacanze prenotate con largo anticipo, e dalla struttura alberghiera ai servizi devono essere rispettate le caratteristiche presentate al momento dell'acquisto. Quindi attenzione anche alle sorprese del momento, per esempio dell'arrivo, se naturalmente non vengono rispettate tutte le indicazioni che c'erano al momento dell'acquisto della vacanza, potete formulare tutte le iniziative di protesta che ritenete. Attenzione anche alle spese extra, che spesso rappresentano, soprattutto a Capodanno, un'amara sorpresa durante il soggiorno. Poi qualche indicazione invece, Nicoletta, anche qua parlavamo del cenone di Capodanno, ne ho qualcuna, sia della Coldiretti, sì, che è stata diramata proprio questa mattina, un'altra di Confcooperative. Allora, per esempio, Coldiretti dice che più di 3 italiani su 4, il 78%, consumeranno nelle case il cenone di fine anno, mentre tra chi ha scelto di mangiare fuori il 15% ha optato per i ristoranti, il 3% ha preferito l'agriturismo, che sono le grandi scelte un po' degli ultimi tempi. Coldiretti dice che in vista del Capodanno si prevede che saranno destinati alla tavola in media 80 euro alla famiglia, a famiglia. Ci sta, ci stiamo. E lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per quasi 9 italiani su 10. Le bollicine servono sempre, dai. Seguito dalle lenticchie, presenti nell'88% dei menù. Portano soldi. Esatto, beneficiano delle tendenze salutistiche, certo, dice il comunicato di proteine vegetali. Coldiretti, della solidarietà per le aree terremotate, perché tanta lenticchia di Norcia viene consumata in queste ore sulle tavole degli italiani. E poi portano anche fortuna, secondo antiche credenze, e quindi non ce la dobbiamo assolutamente far mancare. Adesso un piccolo approfondimento invece, abbiamo parlato di viaggi, di cose buone da mangiare, adesso invece una nota un pochino amara per il 2017. La vuoi subito? Te la servo subito sul piatto? Subito, guarda, dai, sai, una bella e una brutta. Ma io quasi questa responsabilità la delego al nostro ospite di questa mattina. Gliela scarichi, eh? Che è un nostro amico, tra l'altro qualche tempo fa mi ha scritto: ma non mi chiami più in trasmissione? Io subito dico: guarda, non appena abbiamo la notizia pronta per te, immediatamente Cuore Denari chiama. Si tratta di Luigi Gabriele, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione dei Consumatori Codici. Buongiorno. Buongiorno e buon anno. Come non voler bene alle nostre donne di denari, che mi fanno dare anche brutte notizie. Eccolo là. E allora ci mettiamo un po' di cuore, così almeno Nicoletta è contenta. Allora, bollette più care l'anno prossimo per le famiglie italiane. Ieri è arrivata la revisione tariffaria da parte dell'Autorità del Gas e dell'Energia, una revisione tariffaria che arriva ogni 3 mesi, e dal prossimo 1 gennaio per la famiglia tipo la bolletta dell'elettricità registrerà un aumento dello 0,9%. Per il gas l'incremento sarà più sostanzioso del 4,7%. Gabriele, tutto nella norma o una sorpresa in negativo per i consumatori? Erano attesi questi rincari? Intanto è sempre giusto chiarire che riguarda esclusivamente gli utenti forniti in maggior tutela, che non sono la stragrande maggioranza dei consumatori, sia domestici che non domestici. Sono però 24 milioni tra gas ed elettricità. Sì, parte era previsto. Sull'energia sapevamo che ci sarebbe stato un aumento perché negli ultimi mesi abbiamo avuto un problema con la produzione di energia da fonti nucleari della Francia. Che cosa ci azzecca? Ci azzecca perché buona parte dell'energia di fabbisogno di cui noi non riusciamo a produrre, noi l'acquistiamo dall'estero, prevalentemente il nostro principale fornitore è la Francia. Negli ultimi mesi ha avuto grossi problemi con la produzione di energia da nucleare e quindi abbiamo pagato energia più cara rispetto a quella che normalmente abbiamo acquistato sul mercato internazionale. Il paradosso è che l'incremento dovuto all'aumento dell'energia francese si è compensato grazie alla diminuzione delle truffe sul nostro mercato. Voi dite che cosa c'entra? C'entra perché ricorderanno tutti i consumatori, a luglio ci fu il famoso scandalo dell'aumento dei prezzi dell'energia derivanti dall'aumento del dispacciamento. Sì, era stato anche chiesto all'autorità dell'energia di bloccare quell'aumento, no? Quindi insomma è stata una polemica che è andata avanti per settimane. Questo è un fenomeno che è tutto italiano, ovvero non entro nel tecnicismo a spiegare che cosa succede, soltanto posso dire che da giugno, da allora, da quando li abbiamo beccati con le mani nella marmellata, nessuno ha più sperequato, si dice, non è andato più fuori dal seminato, e quindi quell'incremento che gli italiani pagavano in bolletta, perché sempre gli italiani lo pagano, non si è più verificato, però non si è verificato quell'incremento, ma è aumentata l'energia a causa del mercato francese. Sul gas che invece ha invece l'aumento più sostanzioso, che peraltro varrà anche qualcosa come oltre 1000 euro di spesa l'anno in più per la famiglia tipo. Sì, perché il gas è il nostro principale elemento per almeno per compensare i costi sul riscaldamento o sulla produzione di acqua calda sanitaria. Il 5% sul gas è una variazione molto molto alta, perché noi mediamente spendiamo circa 2200-2500 euro l'anno per riscaldarci e produrre acqua calda sanitaria. Da che cosa è dovuto? Anche in questo caso è dovuto da squilibri sul mercato internazionale. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni una forte diminuzione del prezzo del gas grazie all'inserimento nei mercati internazionali dello shale gas, il gas americano estratto dalla roccia, sì, dalla frantumazione, vabbè, un meccanismo molto particolare, insomma, che ha addirittura fatto parlare di rivoluzione industriale americana, eccetera. Vabbè, adesso non torniamo su queste dinamiche. Sì. Ma i fenomeni internazionali negli ultimi mesi, quindi la guerra in Siria, l'instabilità in Libia e così via, ha determinato invece un forte aumento del gas a livello internazionale. Noi ricordiamo, il gas lo compriamo quasi interamente dall'estero, noi abbiamo una piccolissima produzione di gas, tutto il resto dobbiamo servirci da fuori. Quindi le variazioni internazionali, ma soprattutto le tensioni internazionali, generano un forte rientro sul mercato italiano delle oscillazioni, quindi in questo caso per i 18 milioni di italiani per il quale si acquista gas per il mercato di tutela c'è questa variazione così alta. Ahimè, mi sento di preannunciare che nei prossimi trimestri ci potrebbe stare una medesima variazione ancor più sostanziosa. Proprio per via delle tensioni internazionali, a meno che non cambia qualcosa, speriamo bene. Allora, Luigi Gabriele, intanto grazie per essere stato con noi, abbiamo fatto un punto della situazione, tanto per far preparare i nostri consumatori appunto a questo scenario. Prepariamo anche al più presto una puntata a gennaio per dare qualche indicazione pratica su come poter risparmiare, per fare in modo che naturalmente la bolletta sia più leggera, possiamo compensare. Le novità sono tantissime. Eccoci qua. Gennaio vanno spiegate. Benissimo, allora appuntamento preso con Luigi Gabriele di Codici. Intanto buon anno e grazie per la sua disponibilità di questa mattina. Grazie, auguri. Grazie a voi, auguri a tutti i radioascoltatori. Guarda, precisissima, andiamo al traffico. Mamma mia, che puntualità. A tra poco. Cuore e denari. A domani, da domani. Voglio smettere di fumare, questo vizio che mi avvelena è peggio di una nuvola che copre la luna. Nell'istante che mi tuffo nel cielo, come un uccello che prende il volo, è tutto grigio, tutto scolorato, come il giorno che mi sono fumato. E come abbiamo detto ieri, tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è chi proverà a smettere di fumare. Mi piace un sacco, tra l'altro, Locasciulli. Oppure tenterà nuovamente di farlo, perché l'importante è non gettare la spugna. Ieri abbiamo ricevuto molte segnalazioni, molte richieste, vi ringraziamo. Allora vi invitiamo a scriverci una mail, mettete nell'oggetto smetto di fumare, e da gennaio ci saranno delle novità, ci occuperemo soprattutto di voi. Ma lo abbiamo nominato ieri, oggi non potevamo certo non chiamarlo, il nostro dottor Boffi. Buongiorno. Buongiorno, ecco il talebano di fine anno. Il talebano di fine tra l'altro con Ambrogino d'Oro. No, perché lui all'inizio si offendeva quando ci siamo conosciute, gli dicevo: no, dottor Boffi, lei è un talebano, un bel talebano, ma è un talebano. In realtà il dottor Boffi, che tra l'altro abbiamo ricordato perché è stato insignito anche dell'Ambrogino d'Oro, è un nostro grande amico. È un grande, bisogna essere un po' rigidi nel prendere di petto quel problema là. E quindi, e soprattutto ha un grande cuore, perché mette a disposizione anche il suo tempo per aiutare gli ascoltatori di Cuore Denari a smettere, per rispondere ai loro dubbi, per sostenerli in questa decisione che, dottor Boffi, è difficile. No, certo, grazie. Intanto contraccambio assolutamente l'attestato di amicizia e di stima. Fine anno è uno di quei momenti in cui statisticamente ci sono più probabilità di riuscire a smettere. Volte ai fumatori manca un po' quella sensazione di doverlo fare qui adesso, questa scelta non facile, e a inizio anno è vero, ci sono a volte buoni propositi che rischiano di essere vanificati, però è un momento importante dove si può magari provare a dare un taglio, ecco, alle cattive nostre abitudini e ripartire da zero, insomma. Tra l'altro, dottor Boffi, commentiamo un dato che non le farà sicuramente piacere, perché l'annuario statistico italiano dell'Istat edizione 2016 rileva che si è fermato il declino dell'abitudine al fumo ed è fumatore un giovane su tre, con un picco di fumatori nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni per gli uomini e tra i 55 e i 59 per le donne. In altre parole, gli italiani stanno smettendo di smettere di fumare, e quindi ci vuole il dottor Boffi, almeno per gli ascoltatori di Cuore Denari, a mettere un po' di nuovo la voglia di farlo e di ritentare a farlo. Dopo quante volte si riesce a smettere se la prima volta non è andata a buon fine? Ma c'è uno studio famoso che sintetizza le probabilità, che è l'aumento delle probabilità ogni volta che si tenta bene, si tenta in maniera strutturata con un aiuto a smettere di fumare del 25%, per cui 25 più 25 più 25, il quarto tentativo è quello che ha statisticamente più probabilità di successo. È importante però ogni volta riuscire a mettere a frutto l'esperienza anche negativa dei tentativi precedenti, e quindi cercare di non ricadere negli stessi errori. Ecco, soprattutto provare a chiedersi perché non smetto, ma soprattutto perché fumo, che è tra l'altro una delle domande più googlate. Ne abbiamo parlato, abbiamo parlato proprio anche di un'altra, di altre due parole che sono state segnalate tra le più frequentate su Google, che erano quella delle coppette, la terapia delle coppette, ma anche la domanda perché fumo è stata molto cliccata. Quindi questo è segno, dottor Boffi, che c'è attenzione, perché anche il fumatore vorrebbe smettere. Poi, assolutamente, magari c'è una grande domanda, una grande richiesta di aiuto, di informazione, perché anche i ragazzi delle scuole, no, lì probabilmente parte un po' il fallimento dei dati che avete presentato oggi sul fumo in Italia. Siamo al primo posto, ahimè, in Europa con una percentuale dei quindicenni che fumano, e i ragazzi ci insegnano che uno degli slogan forse che ha più senso è conoscere per decidere. Molti fumatori non sono sufficientemente informati e consapevoli ad esempio dei rapidi benefici della cessazione del fumo, del fatto che si possa riuscire a smettere di fumare facendo meno fatica con un supporto, con un aiuto farmacologico, psicologico, e quindi noi cerchiamo di partire con i giovani ma anche con gli adulti da lì, proprio da una maggior informazione sul fumo e anche sugli interessi che ci sono, non sempre pulitissimi, per fare in modo che i ragazzi fumino sempre di più. Ecco, parleremo naturalmente dei ragazzi e daremo magari anche dei consigli ai genitori di ragazzi che stanno fumando. È molto difficile, dottor Boffi, convincere un 17enne a smettere. Quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi è che non c'è niente di trasgressivo nel fumare, non c'è nulla di più omologato di un gruppo di ragazzi che fumano. Molti ragazzi e me fumano anche per essere accettati, perché comunque il fumo è una moda, perché ci sono un sacco di interessi, soprattutto verso le ragazzine che sono state oggetto delle attenzioni, della manutenzione del tabacco in questi ultimi anni, a farle fumare sempre di più, ad esempio con una credulità, secondo me, che non è assolutamente infondata, cioè che il fumo aiuti a rimanere magre. E quindi noi cerchiamo di lavorare nelle scuole, però non è facile, le campagne finora non hanno, ahimè, funzionato, come dicevo prima, però bisogna ripartire anche noi, oltre che fumatori da vero. Zero l'anno prossimo, si ricomincia. E cercare di trovare qualcosa di più efficace. E il dottor Boffi insieme a noi vi darà una mano, naturalmente vogliamo costruire a partire da gennaio una pagina in cui potete chiedere aiuto, raccontare le vostre esperienze, essere aggiornati sulle ricerche, sulle iniziative, raccogliere quindi tutte le informazioni necessarie per fare poi una scelta che speriamo sia quella più salutare, che è quella di smettere di fumare o di ritentare se la prima volta non è andata a buon fine. Ci sono degli ascoltatori che ci hanno scritto, abbiamo selezionato una lettera di Chicco che chiede un aiuto al dottor Boffi e questo è già un segno di quello che faremo nel corso dell'anno. Dottor Boffi, pronto? Ecco la lettera di Chicco. Buongiorno, sono Chicco, ho 44 anni e 3 figli. Faccio sport il venerdì e nel fine settimana. Mountain bike, corsa, trekking. Ho smesso di fumare da una settimana. Fumavo 7-8 sigarette al giorno soltanto al lavoro, mai nel fine settimana. Ma non riesco più a dormire, neanche un'ora per notte. Credo sia la mancanza di nicotina. Cosa devo fare? Aiuto. Grazie, Chicco. Allora, dottor Boffi, il problema è insonnia, perché smettere, prendere già la decisione è difficile, provare a farlo ancora più difficile, e poi ci sono, voi medici giustamente sottolineate tutti gli effetti positivi che la cessazione del fumo nel breve e nel lungo periodo ci regala, però ecco, ci sono anche un po' di effettucci collaterali un po' fastidiosi, tra cui quella che ci segnala Chicco, l'insonnia. È un effetto collaterale? Può dipendere dalla, come dice lui, dalla mancanza di nicotina? Assolutamente sì, uno degli effetti collaterali più frequenti della sindrome di astinenza. Non va drammatizzata, nella maggior parte dei casi cessa spontaneamente nel giro di 2-3 mesi al massimo, però all'interno di questo periodo si può aiutare con dei farmaci o i farmaci antifumo. Non sappiamo se il vostro radioascoltatore li sta utilizzando per smettere di fumare, ma uno degli effetti positivi dei farmaci antifumo è proprio tipo la terapia nicotinica o la più famosa vareniclina, è proprio quello di evitare di avere una sindrome di astinenza, tra cui un'importante insonnia. È uscito proprio in questi giorni uno studio, tra l'altro non sponsorizzato, dei colleghi dell'ospedale San Camillo di Roma, sulla buona tollerabilità in termini di sonno di vareniclina, per cui molti anche spauracchi che si avevano sugli incubi su vareniclina sono assolutamente dimostrati non essere così. Chicco, in questi giorni di vacanza, che cosa può fare? Si può usare la melatonina, la valeriana, ad esempio, che sono prodotti naturali che possono regolare il sonno in queste prime settimane di assestamento. Oppure, se non basta, rivolgendosi al medico, ci sono dei brandi induttori del sonno. Solo in casi fortunatamente rari di persistenza di questo fastidiosissimo sintomo, allora ci sono i senti del sonno, e solo lì allora si possono utilizzare i cosiddetti tranquillanti, le benzodiazepine. Però è meglio non utilizzarle così da soli. Certo, ma sempre accompagnati. Insonnia, certo. Ma sempre accompagnati. Il dottor Boffi poi ci accompagnerà naturalmente con i suoi consigli, risponderà alle vostre domande, intanto commenterà anche le vostre ricette per smettere di fumare. Un ascoltatore, mi segnalano dalla regia, Franco, che però non riusciamo a prendere perché dobbiamo dare la linea al nostro GR, ci suggerisce la sua ricetta. La ricetta è porsi degli obiettivi. Esempio: smettere per 15 giorni, poi per 30 e piano piano si smette, 30, 45 e via. E tutto l'anno, nel 2017 si smette. Dottor Boffi, ci sentiamo per il nuovo anno. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri a tutti. Beh, è una bella sfida quella che lanciamo ai nostri ascoltatori. L'idea è che noi Cuore Denari è una trasmissione di servizio. Assolutamente sì, siamo quindi qua. Come diciamo sempre, la serranda della nostra bottega si apre nel pomeriggio, quella del mattino di apertura è solo così, proprio la vetrina, no? E noi vogliamo essere con voi nelle vostre scelte, nel vostro percorso di cambiamento, rispondere alle vostre domande. Insomma, siamo un po' le amiche del mattino, ma ci allarghiamo. Ecco, vogliamo essere un po' le amiche della vostra vita. Nella seconda parte della trasmissione, su che cosa, con che cosa allieteremo i nostri amici? Io con un tema così non è che sia proprio tanto simpatico, però dobbiamo prendere atto anche che qualche volta le scartoffie della banca le dobbiamo leggere. È arrivato l'estratto conto di fine anno, c'è stata qualche brutta sorpresa con Anna Vizzari di Altro Consumo. Leggeremo insieme questo documento per capire se magari il 2017 potrà essere l'anno giusto per fare qualche cambiamento nella nostra relazione con la banca, perché insomma ci interfacciamo spesso con lo sportello per la nostra quotidianità, per i nostri impegni finanziari, però qualche aggiustamento si può fare, possiamo risparmiare. E a proposito di cambiamenti, sì, naturalmente è l'ultima puntata dell'anno, facciamo un po' di bilancio, ci faremo guidare dal nostro esperto a mettere un segno più o un segno meno, un segno o magari a riflettere solamente su quello che abbiamo fatto e a quello che vorremmo fare, quindi buoni progetti tra cui smettere di fumare. E poi commenteremo invece l'annuario dell'Istat, che ci segnala anche delle cose interessanti sulla salute, e ritorna, gli italiani tornano a fare colazione, anzi per loro diventa una piacevole abitudine. La prima colazione è un tema molto sentito a Cuore Denari, perché porta dei benefici. Musica per le orecchie del nostro amico di più tardi. E infatti ci sarà anche il dottor Speciani. Quindi possiamo dare la linea al giornale nostro radio. Giornale radio, ritornare subito dopo insieme. A tra poco. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Cuore e denari. La grana non lo sai quanto mi manca, da quando mi son fatto un conto in banca. Questa dove l'hanno trovata? Non lo so. Io guarda, veramente, questi qua non ci dormono la notte per trovare queste colonne sonore. E quando non le trovano le incidono loro, le fanno secondo loro. Secondo me l'hanno incisa loro, Marco Lombardo e Laura Vanossi cantano di notte. E una... c'è lo zampino anche di Carmelo Lauricelli. Lui compone il pentagramma, esatto, mentre gli altri due cantano e Laura Vanossi fa il direttore d'orchestra. Allora, e va là. Stiamo pensando proprio a lui, al nostro conto in banca, in quest'ultimo approfondimento di denari del 2016. Un anno, manco a dirlo, che è stato particolarmente travagliato, non è una parola esagerata, sul fronte bancario. Lo ricorderemo senz'altro per Monte dei Paschi, per le conseguenze del provvedimento salva banche, i bond subordinati, gli aumenti di capitale che non sono finiti, le fusioni, i matrimoni, le trasformazioni in SPA, e l'elenco potrebbe essere ancora allungato. E poi alla fine ci sono sempre loro, anzi ci siamo sempre noi, i correntisti, gli italiani che cercano, entrando in filiale o aprendo un conto corrente online, l'home banking, come accade sempre più spesso, uno strumento funzionale, possibilmente non troppo costoso, per gestire risparmi e spese del quotidiano. Allora, oggi vogliamo fare un punto della situazione sul nostro conto corrente. 800 24 00 24, prima preannunciando la trasmissione abbiamo già avuto modo di scatenare gli ascoltatori che hanno già inviato dei messaggi al 349-238-6666, già su WhatsApp. Nicoletta sì, sta monitorando delle considerazioni interessanti. Allora fateci le vostre domande, chiedeteci consigli, raccontateci esperienze belle e brutte nel vostro rapporto con la banca. Siete alla ricerca di un nuovo conto corrente? Il 2017 sarà l'anno buono per aprirne uno nuovo, ad esempio perché giovanissimi al primo lavoro e quindi avete già la prima disponibilità finanziaria per rendervi indipendenti anche da questo punto di vista, o perché lo aprirete per vostro figlio o vostra figlia, oppure insomma volete cambiare perché quello vecchio costa secondo voi un po' troppo. Noi abbiamo un'amica per fare i conti. Facciamo gli auguri di buone feste ad Anna Vizzeri, Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, che salutiamo. Anna, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, vogliamo subito cominciare, cominciando appunto, vogliamo subito capire che anno è stato, no? Le vicissitudini del panorama bancario italiano. Anna, che impatto hanno avuto sui conti correnti e sui loro costi? Segnalo, prima di farti fare appunto la risposta, che proprio la vostra associazione sta diffondendo, non è ancora pubblica ma l'ha anticipata Repubblica nei giorni scorsi, un'indagine secondo cui cambiare conto corrente nel giro di 12 giorni, come indica la legge sulla portabilità rapida del marzo del 2015, è missione impossibile. Allora, voi come sempre, perché fate le prove sul campo, vi siete ancora una volta finti clienti a caccia di un conto corrente più vantaggioso. Come si è conclusa questa nuova ennesima prova sul campo? Sì, allora devo dire che purtroppo i risultati sono stati molto negativi, perché questa nuova legge che abbiamo salutato quando è stata annunciata come una novità importantissima per aumentare la concorrenza del mercato, facilitare il cambio di conti del conto corrente, purtroppo non è operativa, di fatto non può essere utilizzata. Cosa è successo nella nostra inchiesta? Noi abbiamo visitato in totale 203 tra agenzie bancarie e uffici postali, e siamo andati lì sostanzialmente per trasferire il nostro conto corrente, perché non più soddisfatti della vecchia banca. Abbiamo cercato di utilizzare la nuova procedura, anzi abbiamo aspettato all'inizio che il consulente ci informasse autonomamente della norma, ma non è accaduto. Quindi poi abbiamo sollecitato l'applicazione della portabilità, e anche in questo caso i risultati sono stati veramente molto molto negativi, perché nel 50% dei casi il consulente non conosceva le norme, quindi non ne ha proprio parlato, e soltanto comunque in pochissimi casi, nell'11% dei casi, ci hanno comunicato la procedura corretta, quindi sostanzialmente, anche se nel 50% dei casi hanno detto ah sì, conosco la portabilità, poi alla fine soltanto nell'11% ci hanno comunicato bene la procedura, e peraltro alla fine soltanto in un caso, un ufficio postale di Napoli, ci è stato consegnato il modulo per poter fare la portabilità. Vedi, insomma, li bistrattiamo sempre così spesso, anche insomma, sia gli uffici postali che magari anche i dipendenti, noi dipendenti, magari insomma certi servizi del meridione, invece qua in questo caso abbiamo in questo una caso, ottima. Esatto, quindi cosa significa? Che avendo il modulo avremmo potuto lì inserire sostanzialmente i nostri addebiti diretti, bonifici che riceviamo, e quindi poi chiedere la chiusura del vecchio conto e fare il trasferimento, certo, come previsto dalla legge. Anna, ma allora il problema è che appunto gli sportelli bancari, gli operatori non conoscono la norma, perché ci sono delle policy magari a livello di vertice che così disincentivano un po' dal comunicare ai clienti che c'è questa opportunità, o forse il tema è che proprio in 12 giorni è difficile eseguire alla lettera la portabilità, cioè fare proprio un trasferimento pieno di conto corrente da una banca ad un'altra. Magari andiamo a vedere le ragioni di fondo, potrebbero esserci delle difficoltà oggettive? Allora, difficoltà oggettive ci potrebbero essere quando per esempio collegato al conto c'è un deposito titoli con particolari obbligazioni, ma nel nostro caso si trattava di un conto molto semplice, quindi un conto in cui c'erano degli addebiti, delle domiciliazioni, c'era una carta, una tessera, carta di debito e una carta di credito, quindi è un conto comunque che non prevede delle procedure di trasferimento così complicate, eppure la procedura, la nuova procedura non è stata assolutamente spiegata e applicata. Noi riteniamo che in realtà quello che sta succedendo è che le sedi centrali delle banche comunque non stanno spingendo la norma. È anche vero che in questo frangente stanno affrontando, esatto, però noi riteniamo che in realtà queste nuove procedure potrebbero anche aumentare la fiducia dei clienti nei confronti del sistema bancario, cioè nel senso capire che comunque dall'altra parte c'è un comportamento corretto, quindi si cerca di andare incontro alle richieste del cliente che semplicemente vuole cambiare istituto. Peraltro ricordiamoci che il cliente si reca nella nuova banca, lì dove vuole aprire un nuovo rapporto, quindi certo. È ancora più assurdo comprendere il perché non si abbiano delle certo. informazioni corrette. Quindi purtroppo il sistema probabilmente soffre proprio di concorrenza. Certo, ecco. Sono più le banche che dovrebbero ricevere il nuovo cliente che fanno come dire un po' di ostracismo, che pongono degli ostacoli, non comunicano che c'è questa portabilità appunto rapida, o sono le banche vecchie che fanno più fatica a lasciare andare il cliente, Anna? Allora, la nostra inchiesta si è svolta nelle nuove banche, quindi noi in realtà andavamo lì per aprire il conto corrente, anche perché lo spirito della nuova procedura è questa, cioè certo. il cliente si rivolge al nuovo istituto dove appunto porterà poi il conto corrente, quindi in realtà il nuovo istituto avrebbe tutto l'interesse a facilitare la procedura. Poi è anche vero che nei fatti la procedura non può esistere se dall'altra parte non c'è un istituto disposto a trasferire adeguatamente le informazioni con la procedura interbancaria. Quindi è tutto il sistema che non certo. funziona. Allora, intervenire. Esatto. Anna, allora, prima di chiudere questo capitolo dedicato alla portabilità, poi andremo agli altri problemi aperti per i correntisti. Dacci due suggerimenti per chi vuole insistere, vuole cambiare conto, perché dall'anno prossimo l'obiettivo è risparmiare sulla gestione del conto corrente. Non ce la facciamo in 12 giorni, ci vuole un po' di più. Quali sono gli elementi sui quali dobbiamo trattare appunto con la banca? Allora, la prima cosa che mi sento di dire, visto che siamo a fine anno e a breve riceveremo un documento molto importante, la prima cosa da fare è quella di verificare sull'estratto conto di fine anno e sul rendiconto annuale che è allegato quanto abbiamo speso complessivamente per il nostro conto corrente. Nel rendiconto annuo c'è proprio una voce che è il totale delle spese che riguardano il conto corrente, che quindi è un'informazione importantissima per capire quanto abbiamo speso nell'anno. E lo stesso documento è molto importante perché ci fa capire che tipo di operazioni e con quale frequenza facciamo queste operazioni sul conto, quindi ci serve per capire il profilo certo. di utilizzo che facciamo del conto. La nostra operatività, certo. Esatto, con queste informazioni possiamo andare a cercare informazioni sul mercato, è quello che diciamo sempre, quindi confrontare. Sui siti web delle banche ci sono i foglietti informativi in cui ci sono anche dei profili tipo costruiti da Banca d'Italia e che ci danno un'idea del costo di quel conto corrente per quel profilo di correntista. Se vogliamo delle informazioni più personalizzate ci sono anche dei comparatori che fanno questo, ad esempio sì. noi di Alto Consumo ne abbiamo uno del tutto indipendente sul nostro sito altoconsumo.it e questo ci serve per capire quali possono essere le migliori offerte sul mercato. E a questo punto chiediamo, se ci rendiamo conto appunto che spendiamo veramente tanto e possiamo veramente spendere molto di più di quello che sono i nuovi prodotti sul mercato, attuiamo il trasferimento, quindi se proprio non possiamo utilizzare questa legge, speriamo che nel 2017 qualcosa cambi, seguiamo la procedura tradizionale, quindi ci rivolgiamo alla vecchia banca e chiediamo la chiusura del conto. E la portabilità alla nuova banca, comunque anche se non ci mette 12 giorni, dovrebbe farsi carico del trasferimento di tutte le operazioni che si appoggiano sul vecchio conto, Anna, giusto? Sì, nel senso che o se noi ci mettiamo nella nuova banca, in realtà la nuova banca dovrebbe con questa procedura interbancaria fare il trasferimento degli addebiti. È pur vero che se il modulo di autorizzazione per la procedura non ci viene consegnato, in realtà questa procedura non può essere messa in piedi. Infatti, e quindi dobbiamo monitorarla, monitorarla o magari comunicare noi alle società che ci forniscono energia elettrica o le società sì. telefoniche il nuovo IBAN. Non ti dico, Anna, che gesto che sta esatto. facendo Nicoletta, esatto, ce l'abbiamo capito. Allora, per aprire invece il prossimo capitolo, nel rapporto sì. con la banca e costo del conto corrente, ci molto gentilmente legge un messaggio che è arrivato su WhatsApp. Allora, appena abbiamo detto che avremmo parlato sì. di estratto conto, allora ci scrive Emiliano: sorprese nell'estratto conto, come no? 25 euro, chiusura anno, per Fondo Nazionale Risoluzione per le Crisi Bancarie. Mm-hmm. E aggiunge: grazie Banco Popolare. Allora, ed è proprio il grande, tra virgolette, incriminato del momento, questo istituto di credito, perché noi lo avevamo preannunciato proprio. Sì, tu ne avevi proprio parlato. Esatto, il 5 settembre con Vitaliano D'Angerio di Plus 24 del Sole 24 Ore, perché in realtà già questo balzello si stava già caricando sulle spalle di molti correntisti. E avevamo preannunciato proprio che molte banche, proprio per finanziare il fondo di risoluzione nazionale, che è venuto in soccorso delle crisi di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, appunto, avrebbero applicato questo rincaro sui correntisti, Anna. Allora, sì. Mi pare che quasi che parecchie banche stiano adottando questa sì, pratica. Diciamo che non hanno raggiunto i 25 euro di Banco Popolare. Ricordiamo che Banco Popolare ovviamente aveva già preannunciato questo aumento, sì, a settembre. Deve anche completare la fusione con la Pop Milano, quindi esatto, diciamo ci sono anche altre operazioni straordinarie in corso per questa banca. Sì, però diciamo che non è giustificabile un aumento così consistente, tutto a carico dei correntisti. Peraltro si tratta di un aumento caricato soltanto sui vecchi correntisti, quindi chi va ad aprire oggi un nuovo conto corrente in Banco Popolare non ha questa spesa. Ancora una volta questo dimostra appunto come purtroppo la fedeltà nel rapporto non con la banca paga, non niente. Paga. Ecco. E ovviamente i correntisti Banco Popolare in questi due mesi avrebbero potuto lasciare la banca e cercare nuovi conti correnti, quindi non vedersi applicare queste spese che sono state appunto applicate adesso, certo, a fine anno. Se ce ne accorgiamo dall'estratto conto, Anna, possiamo respingere al mittente la gentile richiesta della banca? Allora, purtroppo al momento attuale non si può fare. Nel senso che appunto in questi due mesi il correntista avrebbe potuto cambiare banca e quindi non vedersi applicare questo balzello, ma al momento attuale il balzello verrà ad essere addebitato sul conto. Noi come associazione abbiamo fatto, diciamo così, una segnalazione a Banca d'Italia proprio su questa modifica, perché riteniamo che non ci sia un giustificato motivo che possa sostenere un rincaro così consistente, anche perché significa scaricare sui vecchi correntisti il costo di un'operazione che comunque la banca ha dovuto sostenere in quanto istituto bancario presente sul mercato, quindi tutte le banche comunque hanno dovuto in qualche modo contribuire al Fondo Nazionale di Risoluzione. Non è corretto trasferire questo maggior costo soltanto sui correntisti, si potevano utilizzare altre misure e quindi non lo riteniamo un giustificato motivo. È pur vero che la nostra segnalazione non ha avuto seguito da parte di Banca d'Italia, per cui al momento attuale si tratta di una misura che il Banco Popolare può applicare ai vecchi correntisti. Intanto io abbiamo qualche minuto di tempo per, se volete interagire con voi, all'800 24 00 24, siamo comunque in diretta e quindi potete segnalarci attraverso la vostra viva voce appunto i casi di cui siete stati malcapitati protagonisti e come vi siete comportati appunto con la banca nei confronti della quale appunto avete contestato un comportamento che avete ritenuto non corretto. È anche però vero un'altra indagine, Anna Vizzari, appunto, i dati di Banca Italia recenti che parlano invece complessivamente di un calo dei costi dei conti correnti, sono ancora dati relativi al 2015, quindi vedremo quest'anno se poi questa misura straordinaria, il finanziamento del fondo di risoluzione ha fatto di nuovo rialzare i costi complessivi dei conti, ma la tendenza comunque un po' degli ultimi anni era contraria, no? Grazie anche all'utilizzo dei conti online. Sì, certo, nella tendenza degli ultimi anni è stata complessivamente di una riduzione del costo medio del conto corrente. L'indagine di Banca d'Italia è una comparazione dei dati del 2015 rispetto al 2014. Dobbiamo aspettare fine 2016 per poter avere dei confronti 2016-2015. Noi l'abbiamo fatto utilizzando i dati della nostra banca dati su altoconsumo.it e a noi risulta che per un correntista medio in realtà il costo medio quest'anno rispetto all'anno scorso è aumentato di 8 euro. Quindi in realtà la tendenza c'è stata verso un aumento del costo del conto corrente, soprattutto sono aumentati, noi abbiamo visto, i canoni delle carte di credito, i canoni delle carte di debito. E non sappiamo se è proprio ricollegabile al contributo del Fondo Nazionale di Risoluzione. È una tendenza sicuramente del mercato, però devo anche dire che le nostre indagini dimostrano che comunque c'è una grande variabilità nei costi, quindi scegliendo bene si può ancora risparmiare. Certo. Anna, come ultima parte della trasmissione devo affidarti un altro capitolo, un altro tema molto delicato, che è quello del rapporto con Banca Monte dei Paschi. Allora, sì, il titolo è sospeso in borsa, per cui per gli azionisti che ancora sono rimasti, a meno i piccoli, e vedremo appunto che cosa succederà. C'è tutto il capitolo aperto anche degli obbligazionisti che hanno deciso, in quella parte di aumento di capitale che non ha avuto successo, di convertire le loro obbligazioni in azioni. Non si sa bene a che prezzo appunto avverrà questa conversione, ancora c'è la nebbia, certo, totale su tutta questa parte della situazione di Monte dei Paschi e poi abbiamo appunto correntisti, conti correnti, persone appunto, sono ancora diversi milioni quelli che intrattengono un rapporto regolare appunto con questa banca. Ovviamente certo, molto difficile dare dei suggerimenti alle persone che hanno deciso per loro volontà appunto di continuare a mantenere un rapporto con questa banca molto radicata su un determinato territorio, come sappiamo, ma per chi adesso, alla luce di tutto quello che legge, c'è un provvedimento dello Stato che mette in sicurezza appunto la banca, ma lo scenario è ancora fosco e complicato, difficile da comprendere ai più. Sì, è un po', è ancora uno scenario incerto. La parola. Sicuramente ci sono i sistemi tradizionali di mercato a tutela dei depositi, per cui chi ha fino a 100.000 euro è coperto dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Noi come associazione ovviamente guardiamo con cautela tutta la situazione di Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio comunque, se si può, è di diversificare il più possibile, quindi comunque di cercare anche altri istituti di credito verso cui indirizzare i propri depositi, anche perché la situazione attualmente non è ben delineata e non si sa bene quali potranno essere gli ulteriori sviluppi. Devo anche dire che l'intervento dello Stato c'è stato, sicuramente è stato molto importante, anche un po' anche diverso rispetto a quello che è successo nei confronti di altre banche che hanno avuto crisi nel corso del 2016. Quindi mi sento di poter dire che probabilmente la situazione andrà a risolversi abbastanza positivamente, però in maniera cautelativa è bene diversificare. Allora, intanto segnalo ad Anna Vizzari, ascoltatore che ci ha chiamato, anche un ascoltatore modesto da Milano che è presidente dei piccoli azionisti del Banco Popolare, sì, che vorrebbe parlare dei 25 euro prelevati appunto in maniera forzosa e dice che questi soldi serviranno le banche o i mega stipendi. Guardi, Modesto, lasciamo queste considerazioni a Focus Economia, perché già Sebastiano Barisoni è sempre molto accanito su questi argomenti. Noi occupiamoci dei risparmiatori e della gestione appunto del conto corrente, come fare a difenderci da questi prelievi inaspettati. Intanto Nicoletta mi segnalava un'altra cosa su WhatsApp in merito alla portabilità. Ci chiede un ascoltatore quali banche abbiate interpellato, perché lui dice: sono un direttore di banca della provincia di Ancona, nella mia agenzia la trasferibilità è utilizzata quotidianamente, consiglierei ai cosiddetti esperti di documentarsi meglio prima di parlare. Allora, come conducete le vostre indagini, Anna? Allora, così siamo totalmente trasparenti. Proprio l'anconetano mi deve fare il polemico, ma guarda tu. No, comunque mi fa piacere che ci sia qualcuno che applichi la nuova norma, ecco, per carità. Nel senso che noi la nostra inchiesta cerca di mettere in evidenza il problema e cerca di portare poi una soluzione, non è che è un'inchiesta così con dei risultati sterili. Per cui se dice di applicare effettivamente la trasferibilità sono contenta, poi vorrei vedere però in quanto tempo riesce a realizzare effettivamente il trasferimento del conto, ecco, i famosi 12 giorni lavorativi, non so in quanti casi vengano ad essere rispettati. Ci faremo scrivere allora, documentando naturalmente. Esatto, tanto infatti giochiamo un po' in casa. Allora, sì, certo, un minuto di tempo prima dei saluti, Anna, un suggerimento. Allora, rivolgiamoci un po' ai giovani, auspicando che insomma il 2017 si apra per qualcuno con una bella nuovo posto di lavoro, indipendenza economica e quindi primo conto corrente per i nostri ragazzi all'ascolto. Due suggerimenti appunto per chi così è anche proprio un commento finale di speranza, chiamiamolo un po' così. Allora, per i giovani che a questo punto hanno delle esigenze molto semplici, senza magari il bisogno di un deposito titoli o del libretto degli assegni, più che altro un rapporto che dia la possibilità di avere l'accredito dello stipendio magari o delle mensilità e poi una carta per fare gli acquisti online o i pagamenti nei negozi, sicuramente c'è la possibilità di rivolgersi a un conto corrente online che addirittura per questi profili così semplici hanno proprio dei costi pari a zero, perché i bonifici sono online, perché in molti casi i prelievi anche da sportelli automatici di altre banche sono gratuiti, non c'è il canone fisso annuo né il canone della tessera della carta di debito, quindi in realtà il costo sarebbe veramente zero. Un'alternativa potrebbe essere ad esempio quella di una carta prepagata dotata di codice IBAN. In questo caso abbiamo quindi una tessera che include però anche delle operazioni di pagamento, perché avendo un codice IBAN permette sia l'accredito dello stipendio sia poi di poter fare dei bonifici verso l'esterno. Anche in questo caso totalmente gratuita. Quindi vi permetto tutti di suggerire di andare sul nostro sito altoconsumo.it, di verificare questi prodotti, perché effettivamente sono possono essere degli strumenti gratuiti, certo, e interessanti. Anna, grazie per essere stata con noi, buon anno. Grazie a voi, buon anno. Speriamo nel 2017 di dare come prime buone notizie dell'anno la portabilità piena in 12 giorni, ma insomma chissà, la vedo proprio un po' lenta. E anche altre ottime notizie. Assolutamente. Sarà un buon anno. Sì, intanto vi racconto un po' la borsa di stamattina. Ci sono delle buone borse. Sì, un po' così, va. Dai. Cuore e denari. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. 30 dicembre, cara Deborah, siamo agli sgoccioli, ultima puntata dell'anno di Cuore Denari. Sì. È tempo di bilanci, che lo si voglia o no, un anno si chiude, inevitabilmente si tirano le somme di quello che abbiamo fatto, di quello che non siamo riusciti a fare, delle occasioni perse, della fatica, c'è stata tanta, ma anche delle soddisfazioni. Anche voi forse lo state facendo, e dato che io credo che questa operazione sia particolarmente difficile, non solo per chi come me ha poca dimestichezza coi numeri, ho pensato di chiedere un aiuto ad un esperto, perché insieme le cose difficili si affrontano meglio. Buongiorno al professor Per, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht e a Miami. Buongiorno. Buongiorno Nico e tutti gli ascoltatori. Allora, professore, a fine anno un bilancio ci tocca. Io ho un po' paura, perché temo sempre di cadere nella solita trappola, di vedere o tutto rosa o tutto nero. Non dico nero, anche un po' grigetto. Capita anche lei, però il rischio in effetti si corre. Il rischio c'è, dipende dalla prospettiva con cui guardiamo la vita. Se la natura e le nostre esperienze ci hanno fornito occhiali scuri, tenderemo sempre comunque a vedere gli aspetti negativi. Se invece siamo fortunati e abbiamo degli occhiali chiari e luminosi, vedremo gli aspetti positivi. È un po' anche il nostro umore di fine anno può mettere in luce la parte positiva o negativa. Spesso contano più gli occhiali con cui vediamo la vita che i fatti realmente accaduti. È vero, come vediamo la vita. Allora, qualche indicazione pratica lei, professore, può suggerircela per aiutarci a non eccedere in un verso oppure nell'altro? Allora, cosa facciamo? Dai! Io direi di prendere l'agenda del 2016, un paio di amici o familiari che vi conoscono bene, uno ottimista e uno pessimista, e valutare mese per mese i fatti che hanno attraversato la vita. Solo alla fine bisogna valutarli uno per uno nella loro positività e negativa, magari dando un punteggio, direi da 0 a 10, sì, in senso negativo o positivo. Poi li sommiamo. Il totale spesso ci sorprenderà, perché non è esattamente quello che ci accade, anche se la sensazione di fondo rimarrà quella dettata dai famosi occhiali emotivi. Allora, questa è una buona idea, ma per chi non ha modo di risalire a quello che è stato, ormai forse è un po' tardi, ma potrebbe essere un buon proposito per il prossimo anno. Ma professore, tutta questa somma da 0 a 10, non è che si perde un po' in spontaneità? Non c'è il rischio di diventare dei contabili senza nulla togliere ai contabili, che hanno sicuramente un ruolo molto importante? Caro Nico, la sensazione spontanea di fondo rimane sempre quella, quindi se io sono un positivo o un negativo tenderò comunque a vedere le cose in questa maniera. Però essere oggettivi vuol dire valutare la realtà per quella che è ed essere alla fine più equilibrata nel giudicare se stessi, quindi evitare di perdersi nel troppo nero o nel troppo chiaro. Alla fine della valutazione contabile che noi faremo, che ci permetterà di vedere con occhi più oggettivi dal nostro anno appena passato, è bene buttare tutto alle spalle e aprire la mente in maniera spontanea e libera, il nostro cuore, alle imprevedibili novità che ci saranno nell'anno prossimo. Il meglio è ancora da venire, professor Perna, sì. Quindi quel che è stato, e guardiamo il futuro e sarà un bell'anno. D'altronde anche Obama ha detto the best is yet come. Se gliel'ho suggerito io, adesso non farmi dire tutte le cose. Mi era sfuggito cose. Un Su. Attimo questo aspetto. Allora, il bilancio, come Deborah ci insegna, Deborah, è fatto di tante voci. Giusto? Sì. Allora, per il nostro bilancio, quello che stiamo facendo oggi insieme, ad esempio, potremmo mettere lavoro, affetti, relazioni con gli amici, le passioni. Ecco, anche il numero delle voci del nostro bilancio, forse, professor Perna, ci può dare un'idea di quello che siamo, di quello anche che siamo diventati, ma ci aiuta anche a prendere consapevolezza della strada che stiamo percorrendo. Insomma, se le voci sono poche, forse stiamo perdendo qualche occasione, ci stiamo chiudendo, magari ripiegando. Deborah insegna sempre che bisogna diversificare, una regola che vale per la finanza, vale per l'alimentazione, ma probabilmente vale anche proprio per le nostre relazioni, la nostra quotidianità, che cosa stiamo facendo. Professor Perna, se ne abbiamo troppe voci per il nostro bilancio, forse ci potrebbe venire l'idea che la nostra vita, il nostro tempo è troppo frammentato, troppo a spizzichi, troppo mordi e fuggi. Ma è vero che possiamo anche confrontare questo con silenzio l'economia. Mi ha preoccupato perché ho detto qua il professor Perna viene via, dice questa professore. No, sono cose sagge, nel senso che dobbiamo diversificare la nostra vita. Più che altro penso che dobbiamo diventare consapevoli che la nostra vita è fatta da molte diverse tessere. Quindi spesso quando ne vediamo poche, non è tanto perché ce ne sono poche, quanto perché noi non riusciamo a vederle. Faccio un esempio molto banale. Sì. Se io ho avuto un anno in cui sono stato in salute fisicamente, non posso far finta che questo non esista. Questo è un bilancio positivo, perché non tutti ci trovano nella stessa condizione. Bravo. Il fatto che il mio lavoro non sia migliorato, ma io che abbia un lavoro quest'anno, è molto importante, perché molti non ce l'hanno. Quindi la capacità di vedere tutte le varie tessere, non solo quelle diciamo che spuntano come le punte dell'iceberg, risulta essere fondamentale. In più, ricordiamoci che comunque la famiglia conta, comunque gli hobby scontano, e comunque noi contiamo. I nostri valori, la nostra professionalità, non dipendono da quello che è accaduto durante l'anno, ma sono proprio noi stessi. Quindi possono essere un tesoro che rende un po' più chiaro quello che è un anno che può essere anche stato colpito da fatti negativi. Ricordiamoci anche di andare oltre al lavoro e oltre alla famiglia. Esiste tanto di più. Esiste la nostra vita, esistono gli hobby, esiste l'azione di volontariato che noi facciamo, esiste l'occuparsi del mondo e degli altri, che è sempre qualcosa di molto prezioso e raro e positivo. Quindi, professor Perna, allora, c'è chi però metterà davanti a questo bilancio un segno positivo, un segno negativo, una condizione di parità. Però il problema, nonostante tutto, è che il nostro passato spesso condiziona il nostro futuro. È vero che, perché anche se ce la raccontiamo, noi siamo, ci portiamo un po' dietro alle esperienze che ci hanno segnato e ci segnano spesso, e lei l'ha sottolineato bene, siamo portati a guardare più le esperienze negative di quelle positive. Allora, nella nostra agenda, nella nostra lavagna e dove stiamo appuntando il nostro bilancio, anche solamente nella nostra testa e nel nostro cuore, professor Perna, per chi proviamo a dare delle indicazione, per chi ha un bilancio positivo, quindi va tutto bene, siamo grati, fortunati e siamo contenti, affrontiamo con energia il 2017. Per chi invece il bilancio, nonostante tutto quello che ha sentito oggi da lei, ci mette davanti un segno meno, che cosa si fa? Beh, bisogna ricordarsi, guardando la nostra vita, che alla fine la vita va un po' ad ondate, quindi c'è una risacca e dopo viene un'onda buona. Quindi non arroccarsi in difesa, questo è cruciale. Se l'anno è stato negativo, non vuol dire che quello dopo sarà lo stesso. Quindi apriamoci alle occasioni, no? Nonostante siamo stati scottati dall'annata negativa, è un errore che dobbiamo evitare di fare. Quindi in ogni annata, tra l'altro, c'è sempre qualcosa da salvare. Bisogna assolutamente trovare questa positività, perché è quella carica che ci permette non di lasciarci andare alla negatività dell'anno appena passato, ma proiettarci verso un anno che sarà positivo. Proprio perché la vita è fatta così. Dopo una fase negativa parte quella positiva. Bisogna certo, però è inevitabile, sopra. Vero? Ecco, l'importante è anche, professor Perna, crederci. Perché tante volte, quando ce lo diciamo, ce lo sentiamo dire, sembra che, insomma, lo diciamo per così, per tirarci un po' sul morale. Invece proprio così. Dopo il buio arriva la luce. Ma questo vale per la natura, vale per l'economia, vale per tutto. Noi sappiamo che anche le borse hanno, si dice... Vedi, la donna di denari è già subito... ecco, è vero. Ride. Contenta del parallelo, sì. Essere sereni nel fatto che comunque accanto, dopo la negatività, ci sarà una fase positiva, è una legge di natura. Ricordiamoci che tutta la vita, tutto il nostro corpo, la nostra mente va a ritmi. Ritmi vuol dire fasi su e fasi giù. Quindi quando siamo giù, aspettiamoci la fase su, e quando siamo su, quando le cose vanno troppo bene, Prendiamola con grande serenità, prendiamola come una sorta di salvadanaio per reggere meglio alle fasi negative che si presenteranno. La cosa importante qual è? È quello di non agitarsi in una neutralità, non essere grigi, quindi comunque attaccare la vita con quella forza che ci permetterà poi di cogliere le occasioni che verranno. Roberto ci manda un bellissimo messaggio. Che dice? Nella mia vita tutti gli apparenti insuccessi sono diventati le migliori armi per andare avanti e migliorare. Io sono felicissimo. Saluti Roberto. Ottimo. È un bellissimo messaggio quello che ci manda Roberto, che ci aiuta anche a così chiudere un po' questo bilancio, professore, e soprattutto con un'immagine positiva, perché alla fine di questa nostra chiacchierata io vorrei, e immagino anche gli ascoltatori, sentirmi un po' sollevata e non con un macigno sulle spalle. L'anno che verrà ci aspetta e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, sorridenti, positivi, si va avanti. Quali sono le parole chiave di questo prossimo anno? Direi tre: azione, impegno e perseveranza. Vuol dire forse iniziare a pensare, a rimuginare di meno, no? Invece agire. Questo è importante perché dobbiamo evitare propositi generici. Quante volte all'inizio dell'anno ci abbiamo detto faremo questo? No, prendiamo chiari impegni con noi stessi, il calendario alla mano e fissare delle scadenze precise. In questa maniera qui raggiungeremo magari meno obiettivi di quelli sognati, ma più concreti. Partiremo col passo giusto. Professore, allora, auguri. Buon anno a lei, che sicuramente lo affronterà con tutta l'energia che ci ha trasmesso. E vuole lasciarci con un augurio per i nostri ascoltatori, ricaricante? Sì, sdrammatizziamo, cerchiamo di dimenticarci sempre, con una sana dose di risate aiuta sempre. Circondiamoci di persone allegre e positive, perché l'allegria è contagiosa. Questo non è un detto, è un fatto scientifico. Grazie professor Perna, noi continuiamo a fare i nostri bilanci, auguri, buon anno. Grazie. Buon anno a tutti. Alla prossima. E a proposito di bilanci, sì, accanto alla voce... E di bilance, tra poco parleremo anche di quelle. Accanto alla voce salute, gli italiani hanno messo un segno positivo, sempre secondo l'annuario statistico italiano dell'Istat, che abbiamo già citato riguardo ai dati sul fumo dell'edizione 2016, il 70,1% della popolazione ha fornito un giudizio positivo del proprio stato di salute, un valore che è stabile rispetto a un anno prima, e questo valore è più elevato fra gli uomini che fra le donne. E tra le regioni italiane le situazioni migliori si rilevano a Bolzano, Trento, Emilia Romagna, le peggiori in Calabria e Sardegna. Ma c'è un'altra indicazione che l'annuario statistico italiano dell'Istat ci dà e che leggeremo tra poco, e che possiamo leggere come un segnale positivo, è che gli italiani finalmente hanno adottato degli stili di vita più salutari, un'indicazione che emerge da questo dato, cioè gli italiani fanno colazione, circa 8 persone su 10 abbinano al caffè o al tè alimenti nutrienti, e quindi come latte, biscotti o pane, e questo comportamento salutare ancora una volta è più diffuso fra le donne rispetto agli uomini. E dell'importanza della colazione abbiamo parlato tante volte e torneremo a farlo in chiusura di questo anno, perché con la colazione si inizia bene la giornata. Sì. E noi con questa puntata vogliamo raccogliere tante informazioni, tanti suggerimenti, vogliamo fare condividere dei pensieri con voi per iniziare bene l'anno. Mi hai fatto anche venire fame, ne farei volentieri una seconda, guarda, chissà se il nostro esperto è contento. Allora, prendiamoci la pausa, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sull'autostrada e poi parliamo di nuovo insieme, torniamo di nuovo insieme per parlare di buon inizio della giornata. Cuore e denari. E faccio colazione a New York. Io mi sono nato fuori città. Tra tradizioni, gatti e jukebox. Con il pancake, no. Posso? Vero, la colazione newyorkese. Adoro, io me le faccio anche a casa ogni tanto. Le amo così tanto. Chissà se me le sponsorizza. Adesso glielo medico. Chiediamo chi può essere qua con noi alla fine dell'anno a parlare di colazione. Non è un quizzettone, se no non cominciamo ad intervistarlo mai più, ma è lui. Dai, presentalo tu. Lo presento io. Sì, perché il nostro... so che ti sta particolarmente a cuore. Sì, perché perché ha cambiato anche le mie abitudini alimentari, posso dirlo. Io lì l'ho ascoltato però molto rigidamente e devo dirti che una delle indicazioni più importanti che mi ha dato è stata proprio quella di fare una sana, robusta colazione con delle proteine adeguate. Il dottor Attilio Speciani, il nostro specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buone feste. Buongiorno, anche se auguri. Ve le siete fatti un Ma sacco di volte gli auguri in questi giorni. Beh, intanto ho sentito i dati Istat che sono stati pubblicati ieri e devo dire che grazie anche a voi, perché io posso portare delle conoscenze scientifiche, però voi con la vostra capacità di comunicare e diffondere avete sicuramente contribuito a far incrementare questa cosa tra gli italiani, quindi bravissime, bravissime, bravissime. La goccia dopo la goccia scava la roccia. Avevamo anticipato il tema proprio alle 11. Giuseppe ci ha scritto un WhatsApp: se gli italiani tornano a fare colazione, secondo me è anche merito di Cuore Denari e quindi anche il dottor Speciani e dei suoi colleghi che sottolineano l'importanza di questo mini pasto, che è il primo della giornata ed è quello più importante. Ma a proposito di colazione a New York, Deborah adesso vuole sapere se gliela passa un po' di colazione all'americana. Ho visto questa foto stamattina di Hillary, povera, un po' scarmigliata, poverina, perché avevo quasi voglia di far colazione con lei, vero? Ma magari davanti, sicuramente sarà in un posto molto chic, però è strano che non abbia nessuno attorno, incredibile, sola mentre fa colazione. Nel la piatto vediamo, cosa aveva? No, si vedono dei bicchieri, un piattino, però insomma bisognerebbe iniziare la colazione anche con qualcosa che tira sull'umore, dottor Speciani. Sì, assolutamente. Infatti il bilanciamento corretto con le proteine, come prima diceva Deborah, è fondamentale. Significa che un piatto deve essere circa diviso in tre, quindi avendo frutta e verdura che non devono mai mancare, e avere una dose di carboidrati integrali, quindi pane integrale, quindi anche dei dolci fatti però con farina integrale, che ha tutta una serie di vantaggi, e poi delle proteine. Le proteine giuste, io divido il piatto in tre e questa cosa corrisponde a quello che dice anche l'Harvard Medical School fondamentalmente, e si può stare tranquillamente anche su proteine vegetali, quindi mandorle, nocciole, noci, un uovo sodo, due uova sode, si possono fare delle cose bellissime e veramente ritrovare la capacità della cucina italiana per poter gestire anche dei piatti buoni, in modo che la prima colazione sia non solo salutare, attivatrice del metabolismo, dell'energia e tutto quanto, ma anche buona. Non per niente, insieme, lo sapete anche voi, perché ho scritto questo libro con mia moglie proprio sulle prime colazioni, colazioni e brunch, molti quando l'hanno visto hanno detto: ma queste non sono colazioni, sono pasti. Esatto. È vero, esatto, proprio così. Allora, intanto i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo messaggi, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Un ascoltatore mi scrive: lavoro di notte, dall'1 alle 8 del mattino, quando faccio colazione? O quali tempi seguire per alimentarmi? Dottor Speciani, iniziamo dai turnisti. Il problema dei turnisti va gestito in questo modo. La prima colazione è il pasto che viene fatto dopo il riposo. Quindi se il turnista torna a casa alle 8 del mattino e dorme, generalmente la sua prima colazione diventa questo, esattamente una sorta di brunch, magari quando si risveglia verso l'1 o le 2 del pomeriggio, in modo da rendere attiva questa situazione. Per cui è davvero da gestire secondo i ritmi che ognuno crea. È vero, questo lo sappiamo, che il momento del mattino, quindi superando quello dei turnisti stessi, il momento del mattino è quello che dal punto di vista ormonale dà la maggiore carica, la maggiore possibilità di risposta. Allora, intanto arrivano naturalmente le ricette, vogliono sapere da lei, dottor Speciani, se è corretto o no. Luca ci scrive: faccio colazione con un kiwi, una mela, uno yogurt, una spremuta di arance e pompelmo. È corretto? Cosa manca alla colazione di Luca? Allora facciamo un conto, perché lo yogurt è perfettamente bilanciato tra proteine del latte e zuccheri del latte, per cui aggiungendo kiwi e mela in realtà aggiungiamo dei carboidrati sani che vengono dalla frutta. Quindi cosa manca? Sono sicuro che risponde anche Deborah, manca qualche proteina. Certo, il una vantaggio di mandorle, di nocciole, un uovo sodo, qualcosa di questo genere. Dottor Speciani, a proposito di uova sode, spesso sono veramente il portateco più facile, si lessano la sera, esatto. Si portano, vero Deborah? Mi ha cambiato la vita. Esatto. L'uovo sodo ha cambiato la vita. Sulla mia scrivania non mancano mai. Però alla fine della settimana molte persone hanno il timore di assumere troppe uova, perché una colazione perché devi mangiare la proteina, oppure dopo due giorni dici a pranzo poco tempo, mangi un uovo sodo, due mandorle, una mela. No, poi dicono è il colesterolo, ecco, perché c'è anche allora, questa leggenda. Sappiamo allora, tutto. Questa cosa mi sembra un po' capziosa, nel senso che tutte le persone che in realtà vivono di dolci, biscotti, brioche, eccetera, non hanno mai considerato le uova che ci avevano dentro. Quindi questo rimane un punto dolente. In realtà una delle cose più belle che ci ha accompagnato, di cui anche il nostro cammino insieme è stato testimone, è che nei problemi nei confronti del colesterolo ormai abbiamo capito che c'è solo il 2% della popolazione che ha un problema nella introduzione di colesterolo. In realtà noi ce lo produciamo dal di dentro quando ad esempio mangiamo troppi zuccheri, troppi carboidrati, troppi dolci. Sì. Allora, le uova sono state fondamentalmente sdoganate, sono una buona fonte di, certo, anche di un po' di colesterolo, ma soprattutto una fonte economica di proteine, contengono della vitamina D, degli acidi nucleici, delle sostanze sicuramente ottime che bilanciate in modo corretto possono tranquillamente contribuire ad apportare le proteine che servono. Questo è un dato emerso rispetto proprio al tema del colesterolo, quindi non è tanto quello che introduciamo, ma il vero problema nasce da quello che produciamo internamente, ed è attraverso una sana colazione e un corretto bilanciamento di proteine e carboidrati che otteniamo anche un controllo del colesterolo che produciamo. Perché lo sappiamo, quello che introduciamo manda dei messaggi, vero dottor Speciani? Grande, quindi... che bello sentirvi parlare. Allora, la sua immagine somiglia. Giorgio da Carnate ci scrive: prima colazione con buseca. Lei lo sa come si pronuncia? Io non... Buseca, però c'era una C sola, ho detto. Ci crederete, ma è uno spettacolo. Un altro ascoltatore: arance fresche, panino cotto con fontina e insalata, manca nulla? Dottor Speciani, cosa allora, manca? Arance fresche, panino cotto, insalata e fontina. Se la fontina è abbondante e il pane integrale, lui sta facendo una colazione ottima, perfetta. Perfetta. L'importante è comunque anche nella colazione diversificare, non tutti i giorni la stessa colazione. Esatto, infatti. Ma vero? Io cambio le marmellatine, una volta la cioccolata. Ma dottor Speciani, ormai ce la cantiamo, ce la suoniamo io e Deborah, per cui non lo so. Allora, facciamo... No, ma io un giorno però vi devo far vedere i miei scaffali da prima colazione, dove ho 8 tipi diversi di cereali di colori Eccolo là. Differenti. Allora, lunedì mattina noi siamo da lei alle 7:30. Allora, senta un po' qua, Mauro da Udine. Mai fatto colazione. Eccoci. Lavoro 10 ore al giorno, ballo liscio 4 volte alla settimana, lì qua mi conquista subito. Sono un figurino di 67 kg, sto benissimo e mi godo meglio il pranzo. In questo modo andiamo a mandare un messaggio, a commentare le persone che al mattino, per una serie di ragioni, tempo, magari non hanno la fame, non sono abituate, sono infastidite anche solo dall'odore di qualche cosa che non sia il caffè, no, la colazione non la fanno, stanno benissimo. E Mauro dice: perché devo cambiare? Dottor Speciani, perché dunque, potrebbe allora, stare meglio? Abbiamo un minuto. Mauro è, ma non avrebbe, lui non ha idea di come sarebbe strafantastico se facesse anche una prima colazione. però Mauro, faccia un po' come vuole, balli, l'importante certo. È che lei balla e che sente cuore denari e poi via. Posso dire una cosa su sì. Mauro? Un dato assolutamente importante. Lui dice che dà valore al pranzo. Mentre il problema severo, che nasce anche dall'analisi degli italiani, è che tendenzialmente si tende a non fare prima colazione e poi ad abbuffarsi alla cena. Sì. Mentre Mauro, in realtà, ancora negli orari in cui l'insulina non è alta, in cui non si generano iperglicemie gravi, eccetera, lui in realtà dà valore al pranzo, per cui si muove, balla, è felice, è contento, ma che viva così, che siamo contenti tutti. Certo, Stefano invece è preoccupato perché suo figlio mangerebbe solo dolci, consigli per aiutarlo a diminuire questa richiesta. È vero, ci sono dei ragazzini che o mangiano dolci o non mangiano nulla. Ma dunque, io ho imparato nella mia esperienza che la prima cosa da fare è di sedersi a tavola col bambino e fare colazione insieme. E poi di inventare delle cose carine, simpatiche. Io ricordo da piccolo facevo ai miei bambini il rossino, che in realtà è un tuorlo d'uovo con dentro del pane integrale, con uno spruzzino di limone. Piccole cosucce che sono simpatiche. creare una micro fettina di salmone con sopra un cappero piuttosto che, cioè, anche un anellino di cipolla, salmoni, ma, cipolle, capperi, una magnificenza. Allora, non si dice così. Comunque la busecca, mi rimprovera un ascoltatore, è la trippa. Deborah, tu lo sapevi, ecco, io no. Per colazione è una sostanza... questo salto di qualità ancora non riesco a farlo. Al di là del fatto, allora, noi mettiamo insieme trippa e grasso, che in realtà non è vero, perché la trippa è una, sono le mucose intestinali e quindi sono molto proteiche, per cui è un prodotto tranquillo, gestibile. Poi, no, perché ognuno, si dice trippa, certo, come si dice, ma parlate degli zuccheri e degli effetti degli zuccheri. Allora, noi dobbiamo salutarci perché Cuore Denari chiude i battenti e ritorna per con il 2016. Deborah il 2, lunedì, esatto. 2. Invito il nostro ascoltatore ad andare sull'archivio di Cuore Denari e trova tante puntate che abbiamo fatto anche col dottor Speciani tante sugli zuccheri. Zuccheri, sì. E sugli effetti degli zuccheri e perché vanno ridotti, come vanno sostituiti. Quindi buon anno a tutti, buon anno al dottor Speciani, a Carmelo Lauricella che ci ha accompagnato, esatto, in questo anno, a Marco, a voi Lombardo, che ci avete seguito, Laura Vanossi, le ragazze del centralino che non ringraziamo mai, le nostre sante naturalmente che interagiscono per noi con i nostri amatissimi ascoltatori. Nicoletta, buon anno anche a te. Buon anno, baci baci. Torna presto, intanto io riprendo le redini del programma dal 2 gennaio. E vi quindi aspettiamo. Buon anno a tutti.